Chiederei a Marco Noferi che è un amico di vecchia data e anche un bravo scrittore. Allora, sì, quello che io ho scritto è sull'olio, che credo fosse l'altra passione poi, no? L'altro impegno di Veronelli. Io lavoro in un'azienda agricola in Toscana, tra Arezzo e Firenze, abbiamo un migliaio di olivi, normalmente facciamo 10-15 quintali d'olio. Quest'anno non ne abbiamo fatto niente, ma niente vuol dire niente. Ma non perché c'era un'annata di scarica, l'olivo ha un'alternanza di produzione di solito, perché per un insieme di motivi, di parassiti e di patologie, il raccolto non è esistito. La mosca, la Drosophila subzufila, la fignoletta, e poi le piogge, insomma, una stagione che è stata umida, nettamente umida per tutta la primavera e tutta l'estate, hanno condizionato pesantemente la vendemmia e in modo definitivo la raccolta delle olive. Ora, questa che può sembrare un dato di cronaca, in realtà per noi è una cosa epocale, e lo è per due motivi. Uno, perché ci viene a mancare una parte fondamentale del reddito. Non avere 15 quintali d'olio per un'azienda che imbottiglia vuol dire tanto. E l'altro è una riflessione che facciamo: perché è successo questo? Perché non è usuale che in un anno, in 2 anni, diciamo, si riescano a concentrare tante di quelle avversità per cui poi il coltivatore non raccoglie e non può dare poi a chi consuma. Questa è una riflessione importante che io giro anche a voi, insomma, perché è una domanda che dobbiamo incominciare a farci. Non c'è solo la conseguenza che sugli scaffali di qualche gastronomia mancherà l'olio della Toscana. Comincia a diventare un problema importante, perché noi tra l'altro verifichiamo che questo che è successo in modo eclatante quest'anno sull'olio, in realtà sono una decina d'anni, una quindicina d'anni che sta serpeggiando intorno anche ad altre coltivazioni, intorno anche agli stessi allevamenti. Se voi parlate con i pastori, vi spiegheranno come mai determinati sapori stanno cambiando, alcuni lieviti funzionano diversamente da prima, i pomodori non hanno più lo stesso sapore che avevano qualche anno fa, il grano lo stesso. È successo negli ultimi 10-20 anni che c'è stata un'accelerazione di concause, c'è stato il problema della progressiva scomparsa della qualità originaria del materiale genetico, per cui via via sia le razze, sia le varietà, i semi che venivano utilizzati non fanno più parte della tradizione, della consuetudine, della capacità, dell'attività degli agricoltori, ma vengono dall'esterno. Ed è successo che il clima cambia e produce delle modificazioni importantissime. Ora, quello che a me farebbe piacere è se questa notizia diventasse non qualcosa come le notizie che vengono date al telegiornale, no? Per cui rimangono comunque degli spot confusi in tante altre notizie di cronaca. Il lavoro sta cambiando, questo sta succedendo qualcosa di epocale. Aggiungo, se ho proprio un minuto, un'altra due riflessioni. Una riguarda i produttori, ed erano cose, insomma, che ci si scambiava in quelle volte che ci siamo visti con Veronelli. I produttori, sono, come dire, sempre più in qualche modo spaesati, sono sempre più privati anche di una capacità d'orgoglio di poter decidere, di poter. Cioè, io conosco. Lavoro da 30 anni, conosco diverse centinaia di aziende agricole, in realtà di aziende vere e proprie, dove ci sia un protagonismo, dove ci sia un orgoglio, dove ci sia una capacità imprenditoriale, dove ci sia la possibilità di una contentezza del babbo che lascia il figliolo quell'azienda come qualcosa di importante per il futuro, in realtà ne conosco pochissime. Devo dire, magari questo è un vizio della Toscana, che però conosco sempre di più aziende che sono gestite da capitali esterni, magari è l'attore, magari è il cantante, magari è il concessionario di auto che si regala la tenuta, sono aziende che hanno di solito altri tipi di introiti. Però vi volevo dire, ecco, che viene a mancare, e questo è importantissimo, viene a mancare il primato della conduzione, la capacità del cittadino di essere gestore, governatore di quel pezzo di territorio, ma proprio in virtù di quello che riesce a produrre, non perché va a fare un altro lavoro e gestisce quel potere il sabato e la domenica, perché altrimenti noi, continuando di questo passo, fra pochissimi anni noi avremo, non avremo più la categoria degli agricoltori, avremo dei soggetti spuri, dei soggetti con i quali sarà difficile anche stabilire delle contrattazioni in base a magari delle considerazioni socio-economiche su quel territorio, perché comunque non sarà così per loro importante se quell'anno avranno la possibilità di raccogliere o no 15 quintali d'olio. La seconda considerazione, e ho finito, riguarda invece il cosiddetto consumatore. E sono verissime anche secondo me le cose che leggeva prima Simonetta, no? Sulle quantità di tempo che arrivano dalla televisione, ma c'è anche secondo me un atteggiamento, e io in parte se posso, insomma, è quello che vedo anche qui a Leoncavallo in tutti gli anni, credo che non abbiamo mai mancato un appuntamento. È stata prodotta una curiosità in più, ma non una sensibilità. Chi viene al banco, e questo lo vediamo anche in tanti altri appuntamenti e incontri che frequentiamo durante l'anno, lo vediamo anche in azienda quando vengono a comprare il vino, l'olio, quando c'è, i salumi, ci rendiamo conto di una sostanziale ignoranza, soprattutto del cittadino. Cioè il cittadino ha la necessità, quasi a volte, ora non so se uso una parola troppo grossa, però l'ansia in qualche modo, attraverso un prodotto tipico, attraverso un prodotto locale, di recuperare quello che gli è venuto a mancare dalla sua vita di consumatore e di consumatore cittadino. Però riesce ad ottenere un approccio che è un approccio ancora di nuovo da consumatore, cioè che è per esempio un approccio limitato settoriale. Per esempio ora vanno di moda quelli che si interessano del vino senza solfiti, oppure del vino biologico o biodinamico, del vino senza lieviti, ma nessuno di questi, nemmeno fra i nuovi consumatori, ha mai parlato con me del legame tra questo valore culturale che può avere il vino, il valore estetico, il valore dell'esperienza gustativa e i rapporti socio-economici che ci stanno dietro. Questo secondo me è il punto. Quindi il rischio è di riuscire ad avere, e lo dico anche agli amici che organizzano la Terra Trema, una nuova categoria di consumatori che magari sanno tutto, più di me, sui solfiti, non solfiti, lieviti, non lieviti, regolamenti del biodinamico, ma che non sanno quanto costa la materia prima, non sanno che i 2/3 della manodopera in Toscana è al nero, che non si può quindi ragionare con questi di obiettivi sindacali, di valore locale, di valore territoriale, delle competenze. E questo secondo me è un limite importante, e credo che sia, mi piacerebbe ragionare, discutere di qualcosa che levi questo immaginario, questa sensibilità gustativa, con una voglia di comprendere che se non parliamo di rapporti di forza, se non parliamo anche insieme, cercare di mettere insieme il goudron con un qualche tipo di rivoluzione, perché sennò altrimenti è solo consumo.